La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 1 maggio 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. I nostri ascoltatori, diciamo, lo sanno, noi siamo abbastanza appassionati di tematiche astronomiche e fisiche. E questo sabato parleremo di un anniversario, o almeno utilizzeremo il pretesto dell'anniversario dei 20 anni del telescopio spaziale Hubble per parlare appunto della messa in orbita 20 anni fa di questo straordinario telescopio. Cercheremo di parlare in questa puntata di HST, come è fatto il telescopio spaziale Hubble, cercheremo di parlare della strumentazione a bordo del telescopio, cercheremo di parlare come è cambiato nel corso di questi 20 anni, e tutto questo lo faremo col professor Francesco Ferraro, professore di astrofisica stellare presso il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna. Buongiorno professor Ferraro. Buongiorno a te, ciao. Professor Ferraro, all'inizio noi abbiamo 100 parole per introdurre la trasmissione e quindi in 100 parole le voglio chiedere che cos'è per un ascoltatore medio, per chi non conosce questo telescopio, il telescopio spaziale Hubble. Ecco, allora, il telescopio spaziale Hubble è un telescopio di medie dimensioni, di 2.4 metri di diametro, che però ha una caratteristica fondamentale e unica, diciamo, nel suo genere, perché è un telescopio che è stato messo in orbita al di fuori dell'atmosfera e ha la caratteristica di non essere disturbato dai fenomeni di degrado dell'atmosfera. L'atmosfera ci permette di vivere, ma degrada l'immagine astronomica, che quindi le immagini astronomiche che riusciamo a ricevere a Terra sono molto perturbate dalla presenza dell'atmosfera. Per di più l'atmosfera ci protegge anche dalla radiazione ultravioletta, che diciamo è pericolosa e letale in alcuni casi per lo sviluppo della vita, però dal punto di vista astronomico è tutta informazione che non riusciamo a ricevere sulla superficie della Terra. E quindi un telescopio come Hubble posto al di sopra dell'atmosfera ha due vantaggi fondamentali dal punto di vista di un astronomo, e cioè quello di raccogliere dei messaggi che provengono dallo spazio che non arrivano sulla superficie della Terra, quindi di un'informazione che proviene dai corpi celesti che altrimenti ci perderemmo, e per di più di ricevere la luce come la vediamo con i nostri occhi, con una risoluzione enormemente più alta. Quindi due vantaggi fondamentali per la ricerca astrofisica. Professor Ferraro, non so se queste sono 100 parole, però di questi argomenti ne parleremo poi più diffusamente nel corso di tutta la trasmissione. A questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi cominceremo a parlare proprio dell'Hubble Space Telescope. My sleep, I wake up and I mess it up again. You don't know I'm here, you don't know the measures that I take to keep you here. But hello, it's my pleasure to see this transformation in this room. A canvas comes to life and starts to bloom. And you don't know that I've been painting you forever. The color in your eyes, the brightest ever treasure. And hello, it's my blessing. 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. E bentornati a tutti cari radioascoltatori a Caccia al Fotone, la trasmissione che ormai da 5 anni a questa parte vi tiene compagnia ogni sabato mattina su Radio Città Fujiko. E in questa trasmissione, quindi in questa settimana, stiamo parlando appunto di Hubble Space Telescope insieme al professor Francesco Ferraro, professore di astrofisica stellare presso il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna. Stiamo parlando appunto di Hubble Space Telescope perché qualche giorno fa è stato l'anniversario dei 20 anni della messa in orbita di questo telescopio. Ora però, prima di andare ad affrontare tutti gli argomenti che andremo a spulciare nel corso della trasmissione, quindi la strumentazione, com'era in realtà Hubble, la sua messa in orbita e com'è oggi con tutte le sue modifiche, in realtà vorrei andare a guardare un attimo il nome, perché Hubble Space Telescope si riconduce a un famoso astronomo che appunto si chiamava Edwin Hubble. Ora, chi era effettivamente Edwin Hubble? Ecco, Hubble è uno dei padri, diciamo, dell'astrofisica moderna, e a lui si devono le prime osservazioni sistematiche delle galassie, che sono le strutture cosmiche entro cui si sviluppano la formazione delle stelle e dentro cui siamo e dentro cui si trova anche il nostro sistema solare. Il nostro sistema solare, il nostro Sole, è una delle 200 miliardi di stelle che forma la galassia che si chiama Via Lattea. È appunto la classificazione e lo studio delle galassie che è stato l'argomento principale dell'attività di Hubble. Non a caso la classificazione delle galassie si chiama classificazione di Hubble, proprio perché per la prima volta Hubble ha classificato i diversi tipi di aggregati stellari e galassie che possiamo trovare nell'universo. Per commemorare appunto questo grande scienziato che ha fatto fare i primi passi all'astronomia osservativa, gli è stato dedicato questo che è stato lo strumento di punta, che è ancora lo strumento di punta dell'astrofisica osservativa da ormai 20 anni. Quindi un ricordo dovuto a un grande astrofisico che ha aperto la strada delle osservazioni e l'ha spinta fino ai margini dell'universo osservabile per quei tempi. Professor Ferraro, l'Hubble Space Telescope, come tutti i telescopi, ha più strumenti che vanno a indagare alcune parti dello spettro elettromagnetico. Quanti strumenti sono a bordo di Hubble ancora oggi e quali erano gli strumenti che c'erano su Hubble 20 anni fa? Cioè, in che modo la tecnologia sull'Hubble è cambiata nel corso di questi 20 anni? Dunque, gli strumenti su Hubble, sono il numero totale è sempre lo stesso, diciamo. Ci sono 6 strumenti operativi attualmente sull'Hubble, e sono essenzialmente strumenti che fanno o analisi spettrale, cioè cercano di investigare le caratteristiche chimiche delle popolazioni stellari delle stelle, popolazioni stellari delle galassie che osserviamo, oppure delle camere CCD che scattano delle foto, che sono i due principali, diciamo, strumenti di indagine di cui l'astrofisico si serve per studiare le proprietà degli oggetti celesti. E difatti attualmente ci sono, diciamo, 3 strumenti che hanno capacità di spettroscopiche e 3 strumenti che hanno capacità di scattare foto, diciamo, in diverse regioni dello spettro elettromagnetico, cioè hanno la capacità di la sensibilità di ricevere radiazione elettromagnetica che noi ad occhio nudo non vedremmo. Quindi noi, il nostro occhio è sensibile alla luce, alla radiazione luminosa visibile, ma non riceve per esempio la luce ultravioletta, non riceve la luce infrarossa. La luce ultravioletta per di più non arriva per niente sulla superficie della Terra, e quindi questi strumenti sono in grado di raccogliere e di fotografare l'universo con degli occhi che non potremmo avere sulla superficie della Terra. Quindi caratteristiche spettroscopiche e caratteristiche diciamo di imaging. Ovviamente il fatto che il telescopio, l'Hubble, sia stato pensato come uno strumento modulare, e cioè con i singoli strumenti sono fatti in box che possono essere sostituite, è il segreto con il quale Hubble è riuscito a essere uno strumento di punta per oltre 20 anni. Quindi la prima generazione di strumenti è stata sostituita da una seconda generazione di strumenti con, diciamo, tecnologie sempre più moderne, e quindi, diciamo, nonostante lo specchio sia rimasto lo specchio originale, gli strumenti sono via via cambiati nel corso di questi 20 anni. E l'ultima missione, che è stata fatta appunto nel maggio dello scorso anno, ha sostituito gli strumenti della terza generazione ad altissima risoluzione, con un'efficienza molto più avanzata. È un po' come sostituire, insomma, le lastre fotografiche con le camere CCD che oggi abbiamo tutti nelle macchine fotografiche digitali. Quindi facilità di utilizzo e soprattutto sensibilità aumentata. La nostra trasmissione si chiama proprio Caccia al fotone. Questi nuovi strumenti, diciamo, hanno una sensibilità molto maggiore e riescono a raccogliere fotoni che la prima generazione di strumenti non era in grado di captare. Lei è il primo ospite che veramente ha capito il significato del nome Caccia al fotone. Però, professore, mi permetta di fare un attimo outing, perché, diciamo, quando ero un pochino più giovane, cioè non che adesso sia particolarmente vecchio, però diciamo quando ero un pochino più giovane, vidi questa bellissima immagine, che poi è una delle immagini più belle fatte appunto dalla Hubble Space Telescope, che è il famosissimo Hubble Deep Field. Ora, l'Hubble Deep Field venne fatto con una camera che si chiamava appunto Wide Field Planetary Camera. Quali sono le immagini che nel corso della storia, secondo lei, hanno cambiato il nostro modo di vedere l'astronomia attraverso questo telescopio? Cioè, in che modo Hubble ha aiutato l'avanzamento dell'astronomia come scienza osservativa? Ah, guardi, ce ne sono infinite. In realtà tutti i campi dell'astrofisica hanno fatto passi da gigante utilizzando le foto scattate da Hubble, ma che vanno dalle regioni di formazione stellare, su cui si sono ottenute delle immagini spettacolari della forma e della consistenza di regioni in cui si stanno attualmente formando le stelle, sia sulle possibili morti delle stelle, esplosioni di supernove, stadi finali dell'evoluzione stellare. L'Hubble Deep Field, e cioè spingersi, che ci porta appunto una informazione di com'era l'universo miliardi di anni fa, e poi anche dal punto di vista di come evolvono le stelle. Le immagini degli ammassi stellari sono assolutamente spettacolari e ci stanno rivelando i segreti delle regioni centrali degli ammassi stellari, in cui le stelle vivono una vicino all'altra, e quindi la vita di una stella è perturbata dalla presenza di altre stelle, e quindi, diciamo, una sorta di lavoro sociologico, cioè come cambia l'evoluzione delle stelle quando queste sono costrette a vivere l'una vicino all'altra. La storia di una singola stella, per esempio, è determinata essenzialmente da quanto è massiccia. E quindi il destino anche di una stella è scritto essenzialmente nel quantitativo di idrogeno che ha nel suo nucleo, così come il destino della stella del Sole è scritto nel fatto che ha un certo quantitativo di idrogeno. Ma tutto questo destino, diciamo, che è il DNA della stella, può cambiare se le stelle vivono l'una vicino all'altra e cominciano a infastidirsi, a perturbare la loro vita. E quindi, diciamo, i campi di indagine che ha toccato Hubble durante questo suo ventennio di attività sono davvero tutti i campi dell'astrofisica, e in ogni campo ha dato un nuovo inizio, una nuova spinta alla ricerca. Professor Ferrara, abbiamo appena detto, e ce lo stiamo dicendo nel corso di questa trasmissione, che l'Hubble è diventato grande, quindi adesso ha 20 anni. quando è stato mandato in orbita Hubble, in realtà non era perfetto come lo è oggi, ma in realtà aveva un piccolo errore nel modo in cui faceva le foto, che poi è stato corretto da delle ottiche coassiali che si chiamano COSTAR. Ci vuole ricordare questo aspetto che è stato poco citato nel corso diciamo di questo anniversario? Sì, esatto, e, diciamo, la storia di Hubble è iniziata in maniera travagliata, diciamo, perché le prime immagini che sono venute giù dallo Space Telescope diciamo che erano attese da decenni, perché la messa in orbita di Hubble è stato il coronamento di un sogno che è durato una generazione. Cioè, io ricordo che la mia tesi di laurea è stata una simulazione di quello che avrebbe visto Hubble quando sarebbe andato in orbita, e quindi la prima volta c'era una grandissima attesa. Quindi mi ricordo il grande clima di delusione quando le prime immagini arrivarono, che erano, diciamo, comunque di gran lunga superiore a quelle che potevamo ottenere da Terra, ma non erano il limite che ci si aspettava, e questo era semplicemente dovuto appunto a una correzione che non era stata fatta in maniera opportuna. Ma ovviamente a quel punto l'investimento che era stato fatto su Hubble era talmente forte che naturalmente la comunità scientifica si è subito posta il problema di come fare a compensare questo piccolo difetto, e difatti è stato subito immediatamente pianificato e costruito uno strumento che compensasse questo difetto. E ricordo invece la soddisfazione delle prime immagini, e finalmente abbiamo ottenuto le immagini alla risoluzione che ci aspettavamo. Quindi, diciamo, è cominciata in maniera travagliata con questo piccolo errore, che però è stato immediatamente corretto. Di nuovo è stato fondamentale il fatto di costruire gli strumenti su Hubble con una lungimiranza, con un'ottica di guardare al futuro, e cioè di costruire la prima generazione ma in maniera modulare, così da permettere, appena la tecnologia lo avesse permesso, di sostituire i vecchi strumenti con una nuova generazione. È proprio questo il segreto della longevità di questo telescopio, ed è anche quello che ha permesso di costruire immediatamente uno strumento che compensasse quel piccolo difetto. Professor Ferraro, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi continueremo a parlare di Hubble, parleremo di quello che fu l'idea del suo pensionamento qualche anno fa, e poi andremo a vedere gli sviluppi futuri di Hubble e il suo probabile successore. Quindi a questo punto musica, poi torniamo in studio e poi di nuovo a Caccia Fotone. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, all'interno di Caccia Fotone, raggiungibile dal sito www.cacciafotone.it, e in questa puntata, quindi questo sabato, siamo in compagnia del professor Francesco Ferraro, professore di astrofisica stellare presso il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna. Con lui stiamo provando a celebrare il ventennale della messa in orbita del telescopio spaziale Hubble. Ora, qualche anno fa però, il telescopio spaziale Hubble produceva immagini esattamente come lo fa oggi. gli astronomi dell'Hubble Institute le mettevano sul sito, però per scaricarle ci voleva una notte intera. Ai tempi c'era la 56K, se vi ricordate bene. Quanto pensa, professor Ferraro, che l'arrivo della banda larga abbia contribuito a rendere celebre il telescopio spaziale Hubble e quindi contribuito a diffondere l'astronomia in tutto il pubblico? Ah, senza dubbio, la rete ha permesso una diffusione su grandissima scala di questi risultati. C'è sempre molta attesa sulle nuove immagini che la nuova strumentazione di Hubble riesce a scattare ogni volta che vengono sostituiti gli strumenti. Senza dubbio, quindi, il web, la rete, ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione delle immagini di Hubble, ma anche, spero, dell'interesse da parte della gente nei confronti della ricerca astrofisica, che sembra sempre una cosa così lontana dall'esperienza quotidiana, no? La ricerca astrofisica sembra una cosa campata in aria e la gente si chiede perché investiamo tutte queste risorse nello studio di oggetti che sono poi così lontani. In realtà questi oggetti così lontani raccontano e rispondono alle domande che sono le domande chiave dell'umanità, che l'umanità si pone dal momento della sua comparsa, cioè come si è sviluppata la vita, in base a quali fenomeni si formano oggetti come la Terra sul quale si forma la vita. E le stelle, l'evoluzione delle stelle racconta anche come si formano gli elementi che hanno formato la vita, perché tutti gli elementi chimici sono stati in realtà sintetizzati all'interno delle stelle, che funzionano come delle grandi centrali termonucleari che costruiscono, che convertono elementi leggeri in elementi più complessi. Diciamo, lo studio di questi oggetti così lontani in realtà risponde alle domande più importanti e più intime che l'umanità si fa, e cioè da dove si è sviluppata la vita e perché sulla Terra si è sviluppata la vita in questa forma qui e quale sarà il futuro della vita sulla Terra. Quindi, diciamo, nonostante la ricerca astrofisica sembri così lontana e distante dall'esperienza quotidiana, in realtà abbiamo un legame profondo e atavico, diciamo, con le strutture cosmiche. Professor Ferraro, qualche tempo fa si parlava addirittura di pensionamento per il telescopio spaziale Hubble. Ora, per un uomo, diciamo che 20 anni sono abbastanza poco, 20 anni sono appena l'inizio della vita, però per un telescopio, per uno strumento scientifico, 20 anni sono veramente tanti. Perché si voleva mandare in pensionamento Hubble prima che avesse svolto tutto il lavoro possibile? Sì, certo, 20 anni sono effettivamente un tempo enorme per uno strumento scientifico, appunto perché in 20 anni l'avanzamento tecnologico fa sì che gli strumenti che sono a bordo di questo telescopio siano completamente obsoleti. Ed appunto, come sottolineavo prima, il fatto di averli costruiti in maniera intercambiabile, cioè che possano essere sostituiti, ha fatto sì che Hubble cambiasse, che si adeguasse col tempo alle nuove tecnologie. Quindi, diciamo, i 20 anni di Hubble sono Hubble li porta con la leggerezza di un adolescente, appunto perché, se vogliamo essere precisi, diciamo, l'età riazzerata ogni volta che la Service Mission installa una nuova strumentazione. Quindi, diciamo, dal punto di vista della giovinezza, Hubble, dell'età, diciamo, Hubble ha appena un anno, perché è stato appena praticamente ricostruito, perché sono stati cambiati i pannelli solari, i giroscopi, le nuove camere sono state appena montate. Come dicevo, l'unica parte che rimane intatta dall'epoca in cui è stato messo in orbita è appunto il cilindro che contiene lo specchio e lo specchio stesso. Quindi, diciamo, pensionare Hubble è una mossa azzardata. E diciamo che qualche anno fa si è parlato di questo, di questo possibile pensionamento, che era dovuto anche al fatto che lo shuttle che permette di cambiare la strumentazione aveva avuto uno stop in seguito al grave incidente, ai gravi incidenti che si erano verificati durante il volo di questo vettore. E quindi c'è stata, diciamo, una reazione da parte del mondo scientifico di pressione nei confronti della NASA e del direttore dell'Hubble Space Telescope Institute a Baltimora per chiedere che Hubble non venisse che venisse mantenuto con le prossime missioni. E devo dire che c'è stata una collaborazione anche da parte degli astronauti. Gli astronauti hanno detto: se noi dobbiamo essere messi in orbita e rischiare di andare fin lassù per fare qualche cosa, la nostra scelta è quella di supportare un telescopio come Hubble, che ha fatto fare dei progressi scientifici. Quindi diciamo anche gli astronauti hanno dato il loro contributo nel spingere la NASA a decidere di continuare la manutenzione di Hubble, e quindi è stato coronato con l'ultima service mission, la service mission 4, che ha appunto installato queste nuove camere che sono già operative e stanno già mandando dei dati formidabili alla comunità scientifica. Quindi diciamo un'azione corale sia del mondo scientifico ma anche di quelli dei protagonisti, cioè gli uomini che rischiano la vita per andare a fare una missione di questo tipo. Loro hanno sostenuto la causa di Hubble. Insomma, c'è stata una specie di sommossa popolare sia da parte del pubblico sia da parte degli astronauti. Sì. Senta, io volevo tornare un attimo ad alcune foto che vengono, diciamo, riprodotte attraverso il web e poi diffuse attraverso tutti i canali di comunicazione. E la maggior parte delle foto più belle che sono state distribuite proprio di Hubble sono state fatte dall'Hubble Heritage Project. Ora, l'ultima immagine fatta, quella celebrativa dei 20 anni dell'Hubble Space Telescope, è stata fatta dal dottor Mario Livio, che è un astrofisico presso l'Hubble Space Telescope Science Institute. Chi sono esattamente i ricercatori che lavorano presso l'Hubble Heritage Team? Perché in realtà, più che essere astronomi, sono degli artisti. Sì, sono degli artisti, diciamo, è un programma che cerca di congiungere, diciamo, il mondo della ricerca con il grande pubblico. Quindi fanno dell'attività divulgativa in modo da rendere comprensibili a tutti i risultati che Hubble ottiene attraverso l'analisi di queste immagini. Questo legame è fondamentale e negli Stati Uniti il mondo scientifico ha una particolare attenzione a comunicare in maniera appropriata i progressi scientifici al grande pubblico, perché per dare in qualche modo conto del fatto che c'è un grande investimento da parte della comunità, della NASA, investire in questi grandi progetti, ma c'è anche un ritorno culturale importante. E qui Mario Livio, che è il capo di questo progetto, appunto coordina un gruppo di persone che si occupano proprio di questo, di prendere le immagini, combinarle e montarle spesso in video, che sono dei video spettacolari che poi vengono rilasciati alla comunità, alle televisioni, e comunichino appunto al grande pubblico quali sono i progressi della scienza. Ovviamente ci vogliono dei professionisti per fare questo, perché non è sempre facile tradurre in un linguaggio che tutti possano capire il dettaglio di una scoperta scientifica, che fa fare un progresso a quel campo specifico, ma spesso è un piccolo progresso, un piccolo passo in avanti. La ricerca scientifica funziona così, è l'insieme di tanti piccoli passi, e quei piccoli passi sono spesso caratterizzati da un dettaglio che spesso il grande pubblico non riesce a capire. Ecco, questo team di persone fa proprio questo tipo di attività, analizza le immagini, le combina, le organizza in filmati e cerca di raccontare la storia di quelle immagini organizzare quella storia in un linguaggio che possa essere comprensibile a tutti. Una delle cose che dovremmo fare anche qui in Italia, cioè cercare di avere un contatto diretto con il grande pubblico per cercare di tradurre quello che è il nostro lavoro e quelli che sono i nostri risultati. Non sempre è così facile, anche perché appunto le risorse per la ricerca in Italia sono quelle che sono, di queste risorse bisognerebbe impiegarne una parte appunto nel lavoro di divulgazione e di contatto con i grandi media, che poi sono quelli che arrivano nelle case di tutti e che quindi cercano di comunicare quello che stiamo facendo, il nostro impegno, diciamo, nella ricerca astrofisica. E allora, augurando lunga vita ad Hubble, che ci siano altri 20 anni di lavori straordinari come ce li ha dati fino ad adesso, si conclude questa trasmissione, questa puntata di Caccia Fotone. Io saluto il professor Ferraro e lo ringrazio per aver risposto alle nostre domande, per aver avuto la pazienza di rispondere alle nostre domande. A questo punto ci riascoltiamo sabato prossimo, stessa ora, stessa radio, stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti e soprattutto buon 1° maggio a tutti. Grazie professor Ferraro. Grazie molte e arrivederci a tutti. Ciao.